Si sente la mia chitarra. Thank you. scambi, capito? Sì. Va bene, da 1 a 32. Allora, io da 1 a 33 e tu da 30, da 1 a 32 e tu da 33 a 64. A dopo, ciao. Vai. Eccomi. Mauri, scusami, mi si è spento il computer. Però non stai suonando proprio niente di tutto quello che abbiamo detto oggi. Proprio niente, niente, niente. Stai improvvisando. Su, hai visto? Poi hai sentito anche a me che ci suonavo pure io un po' prima che mi si spegnesse? Sì, sì. Hai visto? Io ero proprio schematico sull'arpeggio. Comincio a essere schematico sull'arpeggio. Inizialmente farai le stesse cose pure tu, poi comincerò a cambiare il ritmo, comincerò a cambiare l'ordine delle note, poi il ritmo e ordine, ok? Ok. Ok, e che mo si è riavviato il computer. Sì. Ci sentiamo dopo. Ciao ciao. Bye. Thank you.